140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Ted Juan, Milano. Un uomo che ha vissuto. In un volume si racconta Riccardo Fogli, una storia di musica e avventure, e ultimo libro scritto da Tommaso Labranca. Sono stato avvicinato da una signora dolcissima che mi ha fatto dei complimenti, mi ha detto: signor Fogli, ma io sono un'editrice, mi piacerebbe molto raccogliere i suoi pensieri a partire da questo momento che lei sta vivendo, un momento unico e ripetibile. E quindi è nata l'idea di fare una lunga intervista, perché in realtà io mi racconto, non è che parlo degli altri, parlo sempre solo di me. Così piano piano, poi ho conosciuto Tommaso, al quale dettavo, col quale registravamo delle cose, e poi lui mi metteva due righe che mi allargavano il mondo. Insomma, è cominciato così, un po' per caso, senza sapere minimamente se ne saremmo arrivati alla fine. Hai una vita che però è già quella, un romanzo, perché è ovvio che con tutto quello che tu hai realizzato, partendo da dove sei partito, è già una vita avvincente, c'è già una trama da film. Vabbè, io e quelli come me siamo figli della guerra, 47, quando avevo 3 anni era il 50, non c'era niente, c'erano le macerie, non c'erano i soldi per vivere, per mangiare. Quando, non so se l'ho raccontato, perché raccontare tutto ce ne vogliono 12 di libri, però veramente quando un pezzettino di carne si vedeva solo la domenica, che i tuoi genitori ti tagliavano, lo davano solo a te, perché loro facevano solo la scarpetta nell'olio, quando le scarpe erano quelle del tuo fratello che prima erano state del tuo babbo, quando i pantaloni erano prima del tuo zio. Questo è, bisogna veramente, per raccontarlo ci vogliono 10 pagine in ogni pensiero. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità. Festival di Sanremo 1982, sono passati, una cifra quasi tonda, 35. Io mi aspettavo che nel tuo libro questo Festival di Sanremo dell'82 avesse un enorme spazio, invece è un capitolo come gli altri. Sì, perché potrei scrivere un libro solamente su Sanremo, è una battuta, ma perché Sanremo è veloce, sgretola, tu arrivi dopo che sei stato in sala di incisione, hai pensato, scritto, cantato la canzone per Sanremo, poi Sanremo vai lì, fai le prove, canti e è finita. Il Sanremo dell'82 era meno complicato di quelli di oggi, che durante quei giorni, oggi, incontri 100 radio, 100 giornalisti, mi sembrava non che fosse minore, un Sanremo minore, ma che ci fosse meno impegno, forse perché io avevo un produttore che filtrava moltissimo i giornalisti e cose, mi proteggeva, perché dovevo tenere la voce riposata per la sera. Adesso invece con i social, con tutto, non c'è filtro per nulla. Come ti pare questo aspetto? Un po' pericoloso per alcune cretinate che girano, però anche coraggioso. Quando voglio sapere che sta facendo Tizio, vado e lo vedo. Quindi sul suo Facebook riesco a capire dov'è, quale si sta incidendo. Io ho un amico pupazzo, ho un burattino, e ho cominciato ad andare su Facebook raccontando alla mia bambina, che in me vedo poco, parliamo io e lui e la facciamo ridere. Questo è il mio Facebook. Solo lei nell'anima è rimasta, lo sai. Questo uomo Lo hai accennato, questo libro è nato in maniera molto particolare perché hai iniziato a scriverlo con Tommaso Labranca, che ci è mancato improvvisamente. In quel momento cosa hai pensato? Hai pensato che il libro si sarebbe fermato? Cosa hai pensato, Riccardo? Ho pensato che forse era meglio lasciar perdere, tenere gli scritti di Tommaso, tenerli sul comodino, integrali come erano, e finirla lì senza pubblicare niente, perché è stato un dolore forte, anche un'incazzatura, ecco, perché lui stava bene, era lucido, un uomo colto, raffinato, generoso, meraviglioso, pieno di idee, di energie. Non capisco perché ce l'abbiano tolto, capito? Non si capisce perché uno deve morire a 54 anni. Un po' mortificato, quindi volevo finir lì. Poi mi hanno convinto invece che forse anche per salvare la fatica, l'energia che lui ci aveva messo. Poi è arrivato Luca Rossi e l'ha concluso, e devo dire che il libro è molto molto godibile. L'hai dato ai tuoi fratelli Pooh, come li chiami? No, perché il libro non ce n'ho ancora, c'ho solo una copia. Poi non so se glielo do. Secondo me se lo devono comprerà. A questa hai ragione. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Riccardo Fogli. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.